La storia e la memoria di Dino Pesole. Solone fece una vera politica monetaria? Fu il celebre apologo di Menenio Agrippa a indurre la plebe a più miti consigli, oppure la sapiente opera di svalutazione della moneta in grado di alleviare il peso dei debiti sui più poveri? E perché Enrico VIII, noto per le sei mogli, era chiamato The Old Coppernose per aver fatto coniare monete con in primo piano il suo naso? Come mai alla fine del Seicento, per risolvere il problema della penuria di monete d'argento in Inghilterra, furono convocati il filosofo Locke, Isaac Newton e Halley, quello della moneta? La storia della moneta è costellata di enigmi, paradossi, episodi che non sempre trovano ospitalità nella storiografia ufficiale. Della storia della moneta parliamo questa sera con Roberto Petrini, inviato di Repubblica, che segue quotidianamente sul suo giornale le vicende della nostra economia, in particolare della politica economica, autore di un interessante libro appena pubblicato da Imprimatur Editrice, dal titolo Controstoria della moneta. Roberto Petrini è in studio con noi. Buonasera Roberto e benvenuto. Buonasera a te e ai tuoi radioascoltatori. Ascoltiamo prima di tutto insieme alcuni passaggi tratti dal libro. Per molti secoli la moneta è stata lo sterco del diavolo. Oggi al dio denaro ci si inchina. Gli alfieri della turbofinanza pensano a fare denaro con il denaro, mentre chi vive con pochi dollari o euro spera di metterne insieme a sufficienza per arrivare alla fine del mese. La sindrome di Paperone, che venera con cupidigia il primo sente guadagnato, ci ha convinti che la moneta sia il luogo specifico dell'avidità, dell'egoismo e della diffidenza. Oggi è indubbiamente così. La storia della moneta, che parte oltre 2,5 millenni fa, nelle isole dell'Egeo, ci dice che il denaro nasce dalla particolare attitudine dell'uomo a dividersi il lavoro all'interno di un gruppo e a fare scambi e commerci, a stare insieme. La moneta, quando sboccia, all'alba dei tempi, fa rima con fiducia, all'interno di una comunità e tra una comunità e l'altra. È più un mezzo che un fine. Dunque, Roberto, tu scrivi nel tuo libro che per secoli dopo la riforma di Carlo Magno e fino al Settecento la moneta è stata una semplice unità di conto. Come diceva Einaudi, si contrattava in moneta immaginaria e si pagava moneta sonante. Perché una controstoria della moneta? Beh, intanto c'è bisogno di storia e la tua trasmissione testimonia che c'è un bisogno e un interesse di tornare indietro, di guardare anche nello specchietto retrovisore. Oggi, se vogliamo un po' prendere un'immagine dall'economia, si guarda all'istante, all'incrocio momentaneo, come fosse un fixing di un prezzo. Nella simultaneità della formazione, dell'incrocio della domanda e dell'offerta. Quindi non si guarda al passato e si guarda poco al futuro. E questo intanto mi è servito come stimolo per cominciare a guardare all'indietro e per interrogarmi, visto il mio lavoro di giornalista, di appassionato di economia, su come, insomma, si erano risolti i problemi monetari nel passato. Peraltro, andando indietro nella storia della moneta, scopriamo moltissimi elementi che possono aiutarci anche a capire la realtà in cui siamo oggi. Assolutamente, l'intento è proprio questo, diciamo, il valore aggiunto del giornalista rispetto allo storico è proprio questo, guardare un po' la realtà di oggi. E un tema fondamentale, se vuoi posso insomma raccontarti alcune delle cose che ho riesumato, insomma, ho cercato di raccontare, di riportare alla ribalta. Nel corso degli anni c'è una chiave di lettura fondamentale, che è quella che riguarda i grandi riformatori della storia e il loro rapporto con la moneta. Ebbene, se vediamo quali grandi riformatori della storia, come Solone, come Roosevelt, loro, quando si sono trovati di fronte alla scelta tra buttare dalla torre la moneta o il bene comune, hanno preferito gettare dalla torre la moneta e salvaguardare il bene comune. Questo lo fece Roosevelt durante il New Deal, svalutò fortemente il dollaro, oltre a fare un grosso intervento pubblico, e sganciò la moneta dall'oro. Disse proprio una frase di questo genere, cioè di fronte, che cos'è mai, insomma, la stabilità monetaria di fronte al benessere di un popolo. Lo fece Solone E non a caso Solone attirò l'attenzione di due grandi economisti, sì. Einaudi e Keynes, sì. Che si soffermarono sull'azione di questo riformatore del Settecento, addirittura prima di Cristo. Solone è un personaggio importante, uomo probo, un magistrato. Lui svalutò la dracma, ma la svalutò non per, come potremmo pensare oggi, per favorire le esportazioni, ma la svalutò per sganciare, diciamo così, dalla pressione dei creditori i debitori. E allora essere debitori non era come oggi, insomma, significava farsi tagliare una mano piuttosto che farsi rapire i familiari più stretti. E infatti tu sostieni nel libro che la storia della moneta è anche una storia di debiti e di crediti, e quindi in qualche modo di forti e di deboli. Sì, perché se andiamo a vedere, c'è un importante dibattito nel Settecento che riguarda questo argomento. Quando i grandi economisti del Settecento, come Ferdinando Galiani, cioè un giovane intellettuale napoletano che vede da Parigi, dall'osservatorio di Parigi, no? scruta l'Europa con grande acume e intelligenza. Beh, lui chiama la svalutazione alzamento, con un termine, no? Sì. Settecentesco, e dice sostanzialmente che in alcuni casi è necessaria, e anzi favorisce spesso, evita, se vogliamo andare all'oggi ad esempio, evita il default del debito pubblico, aiuta i più deboli. Poi magari l'inflazione, questo lo mette in conto, no? Dopo la svalutazione l'inflazione, certo, recupera, le cose si rilivellano, ma nel frattempo ha dato un sospiro di sollievo. Ecco, questo guardando all'oggi, vogliamo tornare alla svalutazione, siamo per uscire, certo. Non è questo, non è questa l'idea. Però l'idea è che la flessibilità monetaria è qualcosa di importante, che è stata, come dire, praticata nei secoli, sui quali gli economisti hanno ragionato e hanno operato i grandi riformatori della storia, e quindi dobbiamo tener conto di questo aspetto. Proprio per sottolineare questo aspetto di Solone che suscita l'interesse di Keynes, ascoltiamo questa seconda lettura tratta dal tuo libro. Solone, nell'antica Grecia, per aiutare i più poveri, svalutò la dracma. Svalutazioni avvennero a Roma per placare le rivolte della plebe. L'abate napoletano Ferdinando Galiani, acuto economista del Settecento, cominciò a pensare che la moneta poteva essere usata per fare politica economica e che svalutare, in fondo, aveva dei vantaggi, almeno per i più poveri e i più indebitati, e fino a quando non sarebbe arrivata l'inflazione a rimangiare tutto. Nell'Ottocento, negli Stati Uniti, nacque il Partito dell'Argento. I Silveriti volevano una moneta debole che alzasse i prezzi agricoli e arrivarono a candidare alla presidenza il democratico William Jennings Bryan, che si batté contro la moneta d'oro dei ricchi e di Wall Street. La storia della moneta, dalla livre francese al testone inglese al maravedì castigliano, è anche la storia dei debiti dei re e dello Stato. Nel Medioevo i sovrani, assetati di denaro, taroccavano le monete e indebolivano le leghe per finanziare guerre ed eserciti. Per secoli si è inseguito il mito della moneta stabile, ma crisi ripetute, drammatiche e devastanti hanno segnato la storia. Crisi ripetute che riguardano soprattutto l'Ottocento e il Novecento, che come sappiamo sono i secoli delle grandi crisi bancarie e valutarie. Poi si arrivò, appunto, Roberto, alla conferenza di Bretton Woods del 1944, che segnò una svolta. E fino al 68 sostanzialmente si determinò una situazione di tranquillità sui mercati. Sì, oggi se ne parla molto di Bretton Woods. Molti invocano una nuova Bretton Woods, e probabilmente sarebbe la soluzione giusta. Così come invocano un nuovo New Deal per certi altri aspetti. Beh, diciamo che negli anni 30 c'era l'influenza di John Maynard Keynes, che insomma, certo, resta il più grande economista della storia, se vogliamo, e che aveva visto giusto su molti aspetti. E Bretton Woods sappiamo tutti cos'era, c'era il grande spirito del dopoguerra, ma sostanzialmente che cosa stabilì? Stabilì che i cambi potevano aggiustarsi. Questa è un'idea molto keynesiana, insomma, no? Di fronte all'incertezza che avvolge l'economia, bisogna saper navigare a vista, e poi ci vuole una multilateralità di consensi. Questo si stabilì grazie a quello spirito di Bretton Woods che si si riuscì a trovare proprio grazie all'entusiasmo che succedette alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Naturalmente, purtroppo, poi nel 1971, ricordiamo tutti, insomma, Nixon denunciò l'accordo e si entrò in una fase di grandi fluttuazioni. E proprio da lì, in qualche modo, in chiave difensiva, cominciano a nascere i primi accordi monetari europei che poi ci hanno portato dopo 20 anni all'euro, no? Il serpente monetario, lo SME, una strada piuttosto difficile, dove tutto sommato forse qualcosa in più possiamo dire, al di là della retorica che vuole questo come un passaggio, no? Come una corsa, no? Verso un obiettivo comunque positivo. Beh, la Germania in qualche modo riuscì a contenere il dollaro e riuscì a legare intorno a sé le altre valute europee, impedendo che svalutassero. Se dovessimo in pochi secondi, quelli che ci sono rimasti, sintetizzare un po' il senso di questo lungo viaggio che tu hai condotto nella moneta, come potremmo sintetizzarlo? La moneta nasce dal mercato, ma senza lo Stato non potrebbe esistere. Ecco, questo è molto importante. Sì. Questo è molto importante e dovremmo tenerlo presente anche oggi. Grazie a Roberto Petrini, inviato di Repubblica, è stato ospite con noi questa sera, autore del libro Controstoria della moneta, Imprimatur Editore. Grazie a voi.